Radio Italia Network, Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Ogni sabato e domenica. Musica, musica. 14, 16. Ascolta bene, 13. Sabato, domenica. Sabato, domenica. Sabato, domenica. Sabato, domenica. 14, 16. Ascoltala e credici. Musica, musica. Sabato pomeriggio, dalle 14 alle 16. Forse anche tutto il mondo, ci hanno scritto da ogni parte, da ogni posto, da ogni dove, ci ascoltano via internet, il programmino di Gigi D'Agostino, RIN Radio Italia Network, ciao! Quanto puoi casino questi saluti, non si è capito niente. Allora, volevo dire che le foto del piedino sono precise, qualcuno addirittura ha mandato, cioè sotto il piedino si è divertito anche a fare il disegnino del triangolino per precisare che insomma era stato molto attentino. E, è forte questo pezzo qua. Vostre immaginazioni in rima è il 333-6467-662 e invece la... io non mi ricordo niente, memoria posta elettronica gigi@supergigi.com. Sono arrivati un sacco di messaggi, grazie di cuore, davvero è bellissimo ricevervi, leggervi. C'è un messaggio bellissimo di Antonio Tella da Napoli: il programmino di Gigi D'Agostino porta al declino la quiete del vicino. Forte, eh? Ma magari il tuo vicino è contento di averti come vicino e di starti così vicino. Però stai attento col volumino, perché poi lui, se si arrabbia, ti picchia molto da vicino. Poi c'è un altro messaggio, dunque, perché non ci vedo da qui? Bellissimo! Franci, è un messaggio di Franci: immagino tante mani al cielo, immagino tante teste alzate, immagino un mondo unito come nelle tue serate. Gigi, tu ci unisci. Grazie Franci, grazie Franci. Scritto a proposito della pubblicità: le anatre depongono le loro uova in silenzio, le galline invece schiamazzano come impazzite. Qual è la conseguenza? Tutto il mondo mangia uova di gallina. Taratatata. Pubblicità. Pubblicità. Taratata. Pubblicità. Taratata. This body's solid. party's rolling on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. Sending out a message to all of my friends. We'll be looking flashy in my Mercedes Benz. I got lots of styles in my gold diamond ring. I can go for miles if you know what I mean. Brani grandiosi mixati perfettamente insieme. Se c'è qualche DJ produttore all'ascolto che vuole mandarci i suoi giochini, i suoi esperimenti, noi li passeremo, sono esperimenti che ci piacciono, ci interessano. C'è un messaggino bello, divertente. Buon pomeriggio a tutti, ascoltatori, manager e farabutti. Io sono Antonio, il DJ carico di plutonio. Antonio, DJ Antonio The Boss. Ciao Ando. Scarso per fare questo lavoro, prima vi ho detto di spedire i vostri progettini, esperimenti, ma non vi ho dato un indirizzo. Allora potete mandare i vostri progetti a RIN, Radio Italia Network, alla mia attenzione, al programmino di Gigi D'Agostino, oppure posta elettronica gigi@supergigi.com. RIN, Radio Italia Network. un amante è una persona che tradisce un amore con una persona che è in adorazione per l'amore. Insomma, un amante ama o tradisce. Insomma, due amanti si amano, si incontrano e si cercano perché si amano, eppure tradiscono. Non mi è mai stato molto chiaro questo concetto. Che dire? In quei momenti un po' struggenti, tanti cambiamenti, tutto ti appare chiaro. Ignaro. In un istante è tutto meno pesante, tutto può cambiare, basta lasciarsi andare, musica. Ecco perché ho deciso di dimagrire. Yeah. Gigi D'Agostino. We'll be right back. Che è seduto sul divano ascolta il programmino del più grande, il D'Agostino. Col triangolo del piede tiene il tempo, lo si vede, mentre mano sulla panza segue il ritmo della danza. Anche a Nick il cagnolino piace Gigi D'Agostino, e sul disco più alla moda tiene il tempo con la coda. 333-6467-662 per le vostre immagini in rima via SMS. Radio Italianetto. Radio Rima. Ciao Gigi, siamo Bruno Checco e Dario da Catania e vogliamo raccontare un fatto. Ciao Gigi, siamo Bruno Checco e Dario da Catania e vogliamo raccontare un fatto. Sabato scorso abbiamo messo alcuni brani del programmino in classe ad alto volume. Risultato, la quinta G del liceo scientifico polivalente San Giovanni la Punta, sospesa, ma onorando il grande Gigi. Conclusione? Il preside non capisce la nostra cultura. Forza Catania! Grande! In onore della musica! Un messaggio ancora per Luca di Roma. Dal tuo mito vorrei dirti quanto sei impedito. Ma oggi vedrai, mi capirai e quel braccialetto sparirà nel gabinetto, altrimenti sparirò io dal tuo letto. Violento. sento di non riuscire. Mi sembra di impazzire. Mi basta poco per capire che bisogna un po' impazzire per poter capire. Per poter capire. Cari amici del triangolo rettangolo, viaggiatori, scusate se vi trito il marrone, ma è il momento della citazione. Se la pubblicità non funziona, non resta che cambiare la merce. Taradatata. I'm arrivando tantissime foto del piedino che batte il tempo e forma il triangolo rettangolo. C'è anche un bel messaggio di Franci Manes da Bologna. La foto per accedere al club del triangolo rettangolo te la volevo fare con ai piedi un bel sandalo, però in ufficio sarebbe stato invano cercare, quindi d'una tennis mi sono dovuto accontentare. Spero di essere all'altezza, anche se la foto non è poi così una gran bellezza. Dai Gigi, non essere troppo esigente, in fondo è meglio che nel club ci sia tanta gente. Ora ti saluto, purtroppo devo tornare a lavorare, non vorrei, per colpa di un triangolino, farmi licenziare. Un saluto a tutti i ragazzi del forum, grande viaggio. Viaggio con la musica del programmino e a Bergamo discoteca Samuel, frescore balneario, questo è il paese e questo invece è un bellissimo grande viaggio. Io mi incespico continuamente, è un disco che lascia spazio a chi cerca spazio, chi vuole spazio. The city stretches like an elastic band. It grows and contracts here in my hand. A tempo con i tempi. Stretch the city to the sky. Put it right in. Tempi, con pochi contrattempi. Yeah, Indietro, un viaggio infinito, non vogliamo più tornare indietro. Questo è il viaggio che ci propone Rin, questa radio che spazia, che lascia fare, lascia suonare, lascia cantare. Un messaggino che arriva dal Belgio. Ciao Gigi, anche il Belgio t'ascolta, è un piccolo paese ma una grande fan. Puoi suonare Charles and Graffs, che non so pronunciare, ma comunque è questa. Puoi suonare Charles and Graffs per me? Anche mia mamma è tua fan, baci Stiende che ci ascolta dal Belgio. Viaggia insieme a noi, insieme a Rin, insieme ai nostri suoni. I suoi momenti si spostano insieme ai nostri momenti. Se ti lasci andare, li senti. Se ti lasci andare, li senti. We'll be right back. se sì, lasciatevi cullare dalla vostra immaginazione. Se volete fare qualche esperimento musicale, ce lo volete mandare, noi lo manderemo in onda. Ci piace giocare, immaginare, sperimentare, camminare, navigare, abbracciare, pensare, cantare, urlare. E poi le rime finiscono. Potete mandare i vostri esperimenti o alla mia casella di posta elettronica gigi@supergigi.com oppure RIN Radio Italia Network alla mia attenzione. I vostri esperimenti, i vostri intrugli musicali, i vostri pensieri in rima al 333-6467-662. Ogni sabato pomeriggio ci riuniamo tutti quanti e cominciamo questa fantastica passeggiata. Una marcia infinita, a volte lenta, violenta, però ci tenta. Thank you. Questi sono i nostri sentieri, i sentieri del programmino. Ho un messaggio dalla Catalogna. Ciao Gigi, do you remember us from last week at Big Ben? Non ci sto capendo niente, sto andando così. Except con people, yeah yeah. Insomma, vuole provare a fare una rima in catalano, cioè, l'ha fatta. Arrivo a bel Vespino, i Ficorin em surti il programmino. Com sempre di Gigi D'Agostino. Oh, non ho capito niente, però apprezzo l'impegno dalla Catalogna. This is Catalonia, our language. Vai. Insomma, tutto il mondo è sul programmino, sui nostri viaggi, sui nostri sentieri. Yeah. senza triangolino. Allora, un grande pensiero di Franz Johann Strauss. È un po' lungo. Allora, i 10 comandamenti contengono 279 parole. La dichiarazione americana di indipendenza, 300. E le disposizioni della comunità europea sull'importazione di caramelle, esattamente 25.911. Fa pensare, fa riflettere. Fa manomettere i meccanismi del cervello. Questo pensiero. Ma il nostro viaggio continua con coraggio. Musica. Andare avanti ma essere incostanti, questi sono i tempi. A tempo con i tempi lenti, violenti, pochi contrattempi. Testolina che si sposta a tempo, destra, sinistra, destra, sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Per chi ha tempo, per questo tempo, si prende un po' di tempo. Gli appuntamenti con questo tempo, in questo mese, sono questa sera alla discoteca Samuel a Trescore Balneario in provincia di Bergamo. Sabato 18 al 24.000 baci a Latina. La settimana dopo, che non ricordo in questo momento il numero, siamo in Austria. Se non erro il venerdì e il sabato siamo, grande appuntamento in Austria, due appuntamenti austriaci, e poi la serata di Halloween, la notte delle streghe, il 31 ottobre in Piemonte, a Cigliano, in provincia di forse Torino, forse Vercelli, non lo so, autostrada Torino-Milano, uscita Cigliano, poco lontano, ci andiamo per mano, 2 Cigliano, Halloween elettronico. arrivate molte mail che chiedono di che gruppo si tratta. Già la scorsa settimana avevo suonato un loro brano, sempre tratto da questo album. Loro sono i Muse, saranno in concerto in questo mese in Italia. Continuo a proporre i brani del loro vecchio album perché secondo me va assolutamente conosciuto, è un album grandioso a mio avviso. È stato divulgato poco, comunque insomma questo è il mio pensiero, quindi mi piace suonarlo ancora. DJ Isaac da Monza. Le spiagge, prima affollate e chiassose, adesso sono vuote e silenziose. L'estate sta finendo e certi amori vanno morendo. L'autunno è alle porte, silenzioso s'avvicina e con sé porta la brina. È il freddo e di nebbioni che se corri troppo puoi sbattere contro i lampioni. Tutte le stagioni in fondo sono belle ed importanti e la vita va avanti. Non ti affliggere, ridi e magari in silenzio rimani, e più bello ti sembrerà il domani. Grazie Isaac, bellissimo poema. So che il silenzio della notte è il più degno messaggero. Leggi questo messaggio semplice e leggero. Giovanni. Non so da dove, ma Giovanni. Sul silenzio ce ne sono un sacco, non so dove cominciare e quindi rimango a sognare. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Cari amici del triangolo rettangolo, viaggiatori, scusate se vi trito il marrone, ma è il momento della citazione. Se la pubblicità non funziona, non resta che cambiare la merce. Taradatata. Programma radio, radioprogramma. Programma radio, radioprogramma. Amo il papà, amo la mamma, amo la musica e fa la mamma. Musica. Per me la musica è uno sguardo, è una carezza, è un sorriso, un po' del viso. Musica non va spiegata, lei va suonata. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. È quel dolore che dà l'amore, che dà la gioia, che dà il dolore, che dà l'amore, che dà il dolore, che dà la gioia, che dà l'amore. Musica, un po' di musica. Se la musica ti affascina, il suo tempo ti trascina. Se invece lei ti è indifferente, non preoccuparti, lei non sa niente. Programma radio, radioprogramma. Musica non va spiegata, lei va suonata. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. Musica, un po' di musica. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. E quel dolore che dà l'amore, che dà la gioia, che dà il dolore, che dà l'amore, che dà il dolore, che dà la gioia, che dà l'amore, ma che ha dolore, che dà l'amore, che dà la gioia, che dà il dolore, che dà l'amore, che dà il dolore, che dà la gioia, che dà l'amore. Musica, un po' di musica, musica, un po' di musica. Regolare, bello e locale, tanto bello, tanto male. Male, male, male, male. Non restare chiuso nell'armadio, esci fuori e scendi la tua radio. Questa radio, taglia l'altro, e qui ci dici, per lo sino, per le storie musicali, in ogni momentino. Se ascolti il programmino, se ascolti il programmino, per le storie musicali, in ogni momentino. Piano, andremo lontano. Musica, oh, DJ, DJ, DJ, DJ. We'll be right back. oggi ci fermiamo momentaneamente. Il grande viaggio continuerà domani in replica e tutte le settimane, il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, dalle 14 alle 16, il programmino di Gigi D'Agostino su RIN, Radio RIN, Radio Italia Network. Musica. Sono due, o rimango qui io o va avanti Robby 82.